infame, un'avventura o un'occasione per sé. Io invece vivo soltanto per te. Io invece credo solamente a te. Fulmini, lampi e fantasmi non ti spaventano più, è già da un po'. È un segno buono, è un segno nuovo, è un segno di libertà, liberamente disponi di te. E allora scegli di stare con me. Non si può stare fuori dal mondo, non può durare vista così. Tahiti è bella, ma un po' lontana anche per noi. E l'ideale di vita due non è Tahiti, ci piaccia o no. Io di banane, di sabbie chiare, non ho mai visto campar nessuno questa città. Non ho mai visto campar nessuno questa città. Del mondo gridando mi stanno addosso coi loro perché, perché non esci, perché non gridi, perché non lotti anche tu. Io invece vivo soltanto per te. Io invece amo soltanto. Vorrei volare più in là, un colpo d'ala e non li sento più. A litigare, a sopraffare, così diversi da te, l'altra faccia del mondo per me. La faccia buona del mondo. E allora viva, viva Tahiti, viva le spiagge e i baobab. Non credo proprio di perder niente se scelgo te. Hai re del mondo, potenza e gloria, quattro denari e cardiopatie. A me sbagliato, a me stonato, a me Tahiti che nasce e vive in questa città. A me Tahiti che nasce e vive in questa città.